Ed eccoci qua, nuovamente in diretta estesa puntata in mostra in circostanza di Art City e Art City White Night Arte Fiera 2024 a Bologna. Non darò particolari ovviamente per quanto riguarda la narrazione di questa esperienza che mi ha portato tantissimo nei depositi della memoria, ma un particolare ve lo racconto. Sapete cosa resta di noi e non viene assolutamente corrotto o intaccato? I capelli. Ecco, i capelli hanno una forza di resistenza incredibile e anche se portati in trazione hanno, nonostante, beh, non sono esattamente, hanno uno diametro veramente imo, veramente ridotto, no? Però una treccia è fortissima, hanno una resistenza veramente molto molto importante. Io ne ho pochi, ma insomma non lo dico perché non voglio apparire narciso, ma del resto narcisi lo siamo un po' tutti, però cerco di curarli il più possibile. Questo appunto, nonostante l'alopecia incalzante, mi porta a parlarvi di Orea Maglia, una sede che ha cambiato, non lo nascondo, la mia vita, ha cambiato e ha visto una crescita anche per l'attenzione e la cura personale. La bellezza di vedersi riflessi in uno specchio in maniera diversa e sorprendersi, incuriosire la visione e l'immagine dicendo: ehi, ma sono io! Tutte e tutti siamo vanitosi, lo sapete bene, anzi a volte gli uomini insospettabili lo sono ancora di più che quelli che sembrano, come diciamo noi, molto, permettetemi il termine, fighetti. Anzi, se vedete qualcuno che non dà l'idea, ecco, proprio quello poi alla fine, se vede uno specchio, si gira. Per il riflesso, perché vi parlo di riflesso? Perché il titolo dell'esposizione già per sé è Reflex e sarà da Orea Maglia, è all'interno di Art City. Con Marco di Orea Maglia ne abbiamo parlato per darne un'estesa presentazione. Poi avremo ai nostri microfoni anche Marco Morosini. Creativo, e se lo può permettere, è creativo in tutti i sensi. Parleremo con Marco di questo lavoro che avrà una durata veramente estesa, come la scorsa stagione, praticamente da Art City ad Art City successiva. Troviamo da Orea Maglia in esposizione permanente questo lavoro, come è stato per la scorsa stagione. Lo troveremo anche sul cornicione che dà in via Ugo Bassi, quindi modo di portare l'arte anche al di fuori, oltre che con un dialogo costante con il lavoro, con la serialità. Beh, di questo poi ne parleremo perché è veramente interessante anche l'approfondimento che viene portato dall'entusiasmo di Marco di Orea Maglia. È il consueto appuntamento con Art City 2024, la sede espositiva è da Orea Maglia. Ci stiamo mettendo anche in punta di piedi, Marco? Beh. Quindi è una mostra di un certo livello. Buongiorno. Di alto livello. Buongiorno a voi e buongiorno alla radio. Di che si tratta? Ciao a tutti. Vabbè, allora, quest'anno direi che abbiamo ospitiamo uno degli artisti più geniali che abbiamo, italiani, che si chiama Marco Morosini e ha creato una collezione in parte che lui sta studiando già da una ventina d'anni e quindi ci sta lavorando e ha fatto tante mostre in giro per il mondo, ma ha aggiunto apposta su misura per Orea Maglia l'inserimento delle sue opere negli specchi di Orea Maglia, quindi anche tutti gli specchi saranno con questa applicazione di sue opere bellissime che ce le abbiamo già installate 2 giorni fa. Il pubblico che entra rimane sorpresissimo e dice: ma è bellissimo, sbalordito, proprio tutti dicono bellissimo, mai anche con gli artisti di prima avevano acclamato questo, sì assolutamente. E quindi questa cosa qua, tra l'altro, è un'altra cosa molto bella che abbiamo fatto insieme su idea naturalmente dell'artista. Abbiamo anche fatto quest'opera dove io ho tagliato i capelli a Marco Morosini, quindi ne abbiamo fatto il video, gli abbiamo fatto il taglio, dopodiché nella rimanenza della cute dei capelli abbiamo applicato questi uomini che hanno adornato proprio tutta la cute e la testa, sì, dell'artista. È anche una delle immagini della mostra. Bravo, è anche il manifesto della, sì, mostra. Dopodiché, con quello, una volta che è finito, abbiamo proprio staccato tutta l'opera per intero dalla cute e da lì ne ha fatto anche di quello un'opera d'arte. E c'è sempre comunque un dialogo, esatto, fra il mio mestiere artigiano del tagliatore di capelli all'arte, quindi le cose che vanno insieme. E poi lo specchio, quale dialogo anche per quanto riguarda il tuo lavoro. Infatti la mostra si chiama Reflex, quindi bellissimo, bellissimo. Materiali? Di tutto, perché abbiamo quadri, dipinti, sculture, abbiamo... Eterogeneo, quindi l'aspetto materico. Addirittura ti dico, con i capelli, lui i capelli rimasti li ha fusi dentro un tondo di plastica, ha fatto questa fusione e abbiamo questa fusione con dentro i capelli. Tra l'altro una cosa strana, perché l'ultima sfilata che è stata fatta a Parigi di Martin Margiela hanno usato i peli del pube, bellissimo, delle donne per fare delle opere d'arte. Quindi insomma siamo al passo con i tempi. Certo, bellissimo. E ci sarà anche una visione esterna? Fuori abbiamo uno di questi omini alti più di 3 metri, bellissimo. Io sarò un nano. Bellissimo, bellissimo. Che è fantastico, lì nell'angolo che si affaccia sulla statua di Ugo Bassi e dà il benvenuto a tutti gli ospiti che entrano nella via che vede le due torri, quindi a Bologna 100%. Una presenza, esatto, importante. Esatto. Durata dell'esposizione? Vabbè, durerà tantissimo. Sì. Intanto una cosa molto importante è che noi apriamo sabato sera, sabato 3, dalle 8 a mezzanotte, ma saremo aperti anche domenica pomeriggio, quindi dalle 3, dalle 15 alle 18 facciamo quest'altra apertura e poi la mostra va avanti per un anno intero fino al prossimo artista. Quindi, grazie della disponibilità, grazie e buon Art City. Grazie. Zoquidi, la sede della conferenza stampa di presentazione. Le conferenze stampa di Orea Maglià sono sempre tutti i tempi, va da sé. Mi hanno dato anche la colonna sonora, e che qualità! Allora, la colonna sonora si presenta in questo modo: la copertina della cartella stampa è intanto in materiale. Ah, solamente toccare questo materiale, è lo stesso tessuto con cui sono realizzati i lettini per la spiaggia, quindi siamo ben distanti, però così una sorta di avvicinamento vi è. All'interno un 12 pollici, cioè un vinile, Night and Day, la parte notte che state ascoltando è più in 4/4, più funky house, di ricerca anche per quanto riguarda il mini DJ set qua portato da Marco Morosini, la parte day invece così selezionata da Marco Orea Maglià, che domani porteremo come musica italiana con una sua interpretazione. Quando ho visto nella sua selezione questo brano ho detto: grande Marco, veramente. Ok, ma ne parleremo domani per il brano del Buongiorno in musica italiana. Comunque, l'anno scorso una bottiglia di pregiato gin, che ovviamente è rimasta solo la bottiglia. Come potete ben immaginare, in questo caso una copertina presa dal tessuto con cui vengono realizzati i lettini per la spiaggia. I brani selezionati da Marco Morosini sono come si dice, no? Hanno un groove, hanno un tiro veramente molto bello. Comunque parliamo anche dell'artista, un creativo, lui è il creativo per eccellenza, insomma, la capacità di comunicare, la capacità di assemblare, non solo ovviamente una presenza nell'estetica, ma anche nella diffusione con questo logo immagine, l'omino in varie dimensioni, l'omino che viene prodotto in maniera seriale, questo piccolo omino stilizzato che, come tanti altri artisti, hanno avuto motivo per essere riconosciuti da altri lavori. Marco Morosini con questo piccolo figuro antropomorfo comunica tantissimo, e in tante esplicitazioni tra il lavoro, l'impegno sociale, l'attenzione visiva, ma non solo questo, come abbiamo ascoltato da Marco, anche l'aspetto di trovare la gestualità nel lavoro, il lavoro stesso e l'immagine riflessa con questi specchi rielaborati, anzi portati in valore aggiunto con le opere di Marco Morosini. Ma sono riuscito a intercettare Marco Morosini per, anzi scusate, Marco, sì, Morosini, non volevo fare l'ennesimo refuso per quanto riguarda due battute in conferenza stampa per la presentazione del suo lavoro. Parla proprio di una riflessione sull'essere umano, sulla sua autenticità, sulla sua riproducibilità, sull'alienazione e sul fatto della produzione cereale industriale. Ho lavorato proprio partendo dal poster, dal mio cranio, che diventa un'immagine con degli omini attaccati, perché le mie ultime opere sono appunto uomini stickers, che quindi vengono applicati sulla mia testa e poi diventano un'opera. Quindi ho voluto realizzare qualcosa che appartenesse a me, appartenesse all'autore. Infatti poi i capelli che vengono tagliati li troverete all'interno della mostra in delle ampolle resinate, appunto proprio che conterranno il mio DNA. E ho voluto realizzare un'opera non isolata, semplicemente ho preso i quadri che avevo a casa e li ho appesi alle pareti di questo spazio, ma ho voluto creare invece proprio un'opera che dialogasse con lo spazio e interagisse con questo spazio, appunto lo spazio di Orea Maglià, quindi partendo dal poster, e poi prosegue il percorso. Infatti troverete questi miei omini, queste mie pellicole, questi miei stickers anche sulle superfici riflettenti del suo atelier, in questi specchi che sono più di 24 più 3 della zona lavaggio, dove la gente appunto si siederà, si farà fare la conciatura, ma poi si vedrà riflesso all'interno di queste opere. Quindi un dialogo, una contaminazione tra una fruizione diversa, quella che avviene appunto all'interno di un atelier o all'interno di una mostra, all'interno di un museo. In questo caso qui c'è una interferenza e una riflessione su quello che è un nostro stato sociale quotidiano, legato appunto alla quotidianità, alla contemporaneità. Grazie. Bene, grazie a tutti. Oh, questo ha scatenato la mia invidia, perché non ho l'originale. Questo è un capolavoro per quanto riguarda il lavoro da dance club. permesso, eh. Extended play di Feel Me Club Paradiso. Questa è Italo Disco riletta nel 2024, di una bellezza. Comunque, ok, è un vinile che facciata A e facciata B, anche se non le definirei A o B, ma come hanno definito gli stessi autori, Marco Rea Maglià e Marco Morosini, Night and Day. Domattina troveremo Day, invece, in un'interpretazione di Marco Zanardi e Rea Maglià di un brano che per me è stupendo. Vi dico solo, l'autore è Bruno Martino, che per me è un idolo tutti i tempi. Sì, ci sono delle bombarde, come state ascoltando. Insomma, non è esattamente la musica che propongo alla mattina al Breakfast Club, però insomma la qualità c'è. E come? E Marco Morosini, creativo e con una capacità di comunicare veramente molto forte, non solo per l'estetica, con un contenuto che dalla reiterazione alla produzione, al dialogo con il lavoro, alla bellezza e anche la comunicazione con la città. Sarà per Art City, avrà una durata quanto mai estesa e ricordo sabato 3 febbraio l'open night in via Ugo Bassi nel salone di Orea Maglià. Magari c'è un DJ set con i contenuti che abbiamo appena ascoltato. I don't have a lie, I ain't grabbing a pint. Staying sober so I keep track of my lies. Here's a wiretap to the back of my mind. Avremo un post, chiamiamolo così, un dopo per quanto riguarda Art City, con un'installazione teatrale che sarà domani ovviamente in scena per chiudere la settimana, sempre puntuali alle ore 7 con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, a breve Edipo Enciclopedico, Liberi Dentro, rassegna stampa, poi il grande rock con Angela Zocco e Andrea Gozza. I don't know, that's just all I thought. Questa sera dalle ore 20, binario 69, Domenico Calieri con un progetto riguardante Thelonious Monk, è il concerto nella sede, nel club di binario 69, anticipato dalla presentazione letteraria, autrice Simona Cantelmi con Io non mi trucco. Dopo il concerto il DJ set da Willy Groove per Radio Città Fujiko, quindi siete tutte e tutti invitati, come siete invitati poi a colazione con il Breakfast Club per la giornata di domani e vigilia di weekend. Dal vostro William Piana, grazie per l'attenzione, un buon mese di febbraio e un caloroso abbraccio, servo vostro, mi congedo e vi do appuntamento a domani. Ciao!